got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. In una parola, sono rimasto folgorato e mentre mi trovavo ancora folgorato sono stato informato da mia figlia, a cui non fa difetto la decisione, come pure a sua madre, che questo matrimonio si sarebbe fatto qualunque cosa sua madre o io ne pensassimo. Quanto a voi due e ai problemi che dovrete affrontare, a me sembrano quasi inimmaginabili. Ma tra questi io non ci sono. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli, che cavolo aspettiamo a mangiare? Take a little and let your poor heart break a little. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto, benvenuti. La voce, forse qualcuno l'avrà riconosciuta, è quella del doppiatore italiano dell'indimenticabile Spencer Tracy, protagonista di un film di quasi mezzo secolo fa, Indovina chi viene a cena, che dà proprio il titolo alla nostra trasmissione. I temi del film, quello delle coppie miste, dei pregiudizi razziali, dell'integrazione fra culture, restano purtroppo attuali, ma noi pensiamo che si possano superare, come a tavola superiamo a volte certe nostre avversioni. Può capitare ad esempio di avere un pregiudizio negativo per il cibo cinese e poi mangiare una splendida anatra alla pechinese. Succede poi di avere pregiudizi negativi per lo zenzero e poi scoprire di non poterne fare a meno. Insomma, a tavola come nella società e nella vita i gusti cambiano. Parliamo quindi di cucina e ricette per raccontare i nuovi italiani, magari nati all'estero ma da decenni in Italia, oppure nati in Italia da genitori stranieri. E indovinate chi viene a cena a Radio 24 oggi? Benvenuto a Clédy Cadio. Bentrovati e grazie mille dell'invito. Cadio, lo saprete benissimo tutti, è un ballerino di origini albanese da moltissimi anni in Italia, un personaggio televisivo. Come si dice buon appetito nel tuo paese? You buffed mir. Ah, e il piatto che ci cucini stasera qual è? Ma il piatto, in realtà io sono rimasto legato a un piatto, diciamo un piatto povero albanese che si chiama trahana. È un piatto che si può mangiare in tutte le ore del giorno, insomma, non è importante che sia colazione, pranzo o cena. Il piatto povero, ecco. Tu lo cucini spesso a casa? Beh, questo, anche se si chiama piatto povero, è un po' difficile da preparare. Io cucino il minimo indispensabile, tipo pasta, olio e parmigiano, oppure il contrario, riso. Cose molto facili, insomma. Trahana, quindi, è un piatto della tua infanzia, dei tuoi ricordi? Sì, sì, legato a questo piatto, sono rimasto molto, molto legato. Chi lo cucina in famiglia? Era la mia nonna che preparava questo piatto e poi mia mamma e poi tutto si è industrializzato e adesso si trova pronta questa farina magica che è l'ingrediente principale di questo piatto, insomma. Mm-hmm, è una farina, è proprio che si chiama trahana, è così? Sì. Che si trova solo in Albania? Deriva da una parola in turco, perché comunque il piatto, essendo noi invasi per tanti anni dalla Turchia, è rimasto, insomma, come altre tradizioni, anche questo piatto, insomma, una farina con la farina, l'uovo, il formaggio si lascia seccare Adesso io lo sto spiegando a modo mio, ma magari faccio qualche gaffe per chi lo sa fare. Magari qualche mamma albanese in ascolto ci manderà delle mail per specificarci meglio. Però alla fine della trasmissione daremo anche la ricetta. Questo quindi è un piatto del paese della tua origine, è un piatto che immagino ricordi casa tua, il cui gusto insomma ti ricorda di quando eri bambino. Assolutamente. Anzi, adesso che mi viene in mente, ho insomma anche, non dico che provo il gusto, però c'è quella sensazione di averlo davanti. È un gusto un po' agrodolce, è un gusto aspro, che faccelo sentire. No, è anche abbastanza, cioè non salatissimo, però comunque c'è il sale, perché la prassi è quella, come quando prepari una pasta semplicissima, solo che quando l'acqua bolle, in quel momento butti Trana. Questa farina che diventa liquida, e poi il pane che è fatto a pezzettini, anche il pane rimasto dei giorni, pane che di solito... Infatti dicevi è un piatto povero. Allora sentiamo quali sono le altre pietanze del tuo paese, che come dicevamo in alcuni casi ha delle assonanze con la Turchia. L'influenza della cucina turca è fortemente presente nella cucina albanese, che risente anche di contaminazioni greche e italiane. Piatto nazionale sono il riso pilaf, la carne arrosto e il tas kebab, un piatto a base di bocconcini di vitello. Gli antipasti in Albania si chiamano mese. Normalmente nella cucina casalinga i primi e i secondi piatti sono sostituiti da un piatto unico. Si usa molto la carne, in particolare quella di agnello, vitello e maiale. Nella parte centrale i piatti tradizionali sono tave deu a base di carne e il tave cosi a base di yogurt. Ottimo è il cosiddetto birek, cucinato in diversi modi. Il ripieno può essere a base di verdure, carne o formaggio. Il birek si può trovare facilmente in vendita nelle bancarelle lungo le strade delle città albanesi. Nella parte meridionale un piatto tradizionale usato principalmente per colazione è il traana a base di yogurt. Dal latte di capra si ottiene il kos e vari formaggi. Arance, limoni e fichi sono i frutti più comuni. Alcuni tipi di uva e bacche vengono trasformate in bevande fermentate. Il fegato è considerato un cibo prelibato. Le carni sono solitamente cucinate in stufato con il riso o arrostite. Si fa un ampio uso poi della frutta secca. I vari tipi di noci vengono usati come salse o schiacciati con l'aglio. Il pane principale del paese è un pane fatto con mais. I dessert albanesi sono molto ricchi e dolci, fatti con sciroppi e noci. Beh, insomma, viene un po' di acquolina in bocca. E qual è il piatto che cucini più spesso? L'ho fatto ritornare a casa tua? Sì, guarda, tanti nomi non è che li avevo dimenticati, però ovviamente, come ogni cosa, quando non ci sono più queste usanze, vengono un po' così... messe a parte, però dicevi che dei piatti italiani quello che tu apprezzi di più forse è la pasta, nonostante tu sia un ballerino, insomma carboidrati, questa è una buona notizia per chi ha paura di ingrassare. Ma no, guarda, che si ha questo pensiero su chi fa di solito sport, o in questo caso la danza, che deve essere sempre attento, non so perché. Gli insegnanti che mi ospitano a fare delle lezioni, degli spettacoli, rimangono un po' sbalorditi insomma in ristorante o in cucina, perché dicono: Cledi, la prossima volta è meglio farti un vestito che invitarti a cena o a pranzo. Perché sei una buona forchetta. Sì, perché ovviamente poi insomma non ho limiti insomma. Allora, tu sei diventato famoso nel nostro paese, lo dicevamo prima, grazie anche alla televisione, ma comunque per anche il balletto classico. Adesso ti stai dedicando molto a questo, hai anche una scuola e stai facendo delle tournée. Ti abbiamo conosciuto negli anni 90, alla fine degli anni 90, ma non tutti sanno che sei sbarcato in Italia nel 91 a bordo di una di quelle navi cariche di albanesi che noi alla televisione abbiamo visto tante volte. Poi sei stato rimpatriato e sei tornato. Adesso ti farei sentire qualcosa che ascoltiamo assieme. Simile dittatura sul proletariato. Antico e tredanteo. Socialista. Qualcuno ci chiama, ci dice che il porto di Durazzo è aperto. E io ho seguito la folla senza rendersi bene conto a quello che si andava incontro. In 10 minuti eravamo in 10.000. Mio marito mi chiede, ce la fai a salire con la corda? Sì. Noi vedevamo le TV italiane, tutti parlavano l'italiano. Era come un tipo di finestra da dove noi guardavamo per guadagnare la nostra libertà. Abbiamo cominciato a gridare Italia. Italia, Italia. Scappare era una parola grande perché comunque era pieno di polizia, di carabinieri. Facevano tutti il segno della vittoria e io pensavo, ma che cosa hanno vinto? Forse hanno vinto il viaggio di ritorno. Questo è il trailer del documentario La nave dolce, presentato al Festival del Cinema di Venezia lo scorso settembre, e i fatti che racconta sono proprio quelli delle navi albanesi cariche di persone che arrivavano al porto di Bari. A bordo di quella nave c'eri anche tu, e quindi la tua voce c'è anche nel documentario, è così? Sì, io sono uno dei testimoni del docufilm di Daniele Vicari, il regista che mi ha proposto insomma questa esperienza, la quale io ho accettato subito, perché forse per la prima volta nel film viene data un'immagine diversa di noi albanesi, non agli stranieri mostri, ma a persone che scappavano da un regime in cerca di libertà e di una vita migliore. Ovviamente si è sempre pensato, ma tuttora si ha questa idea di chi scappa dal proprio paese, insomma i motivi sono sempre gli stessi, tipo si scappa dalla fame, si scappa dalla guerra o chi è perseguitato politico. Ci sono tanti contesti e tanti motivi. Ovviamente in quella nave di 20.000 persone c'erano tante persone di varie strato sociale, diciamo, però ecco, io ero un danzatore con la voglia di calpestare il palcoscenico italiano di cui ero innamorato e ero attratto già da quando ero in accademia, da piccolo, e non ero il solito, diciamo quasi il 90% dei albanesi di quegli anni vedevano la televisione italiana, erano insomma, al di là del fatto che tutti parlavano italiano appunto grazie alla televisione, però ecco, questa finestra era l'unico modo per guadagnare, come dice un altro mio connazionale del film, testimone, per guadagnare la libertà che avevamo soltanto così nei nostri visioni, nei nostri sogni. Perché appunto arrivavate dalla caduta di un regime, c'era un crollo finanziario dovuto poi al successore, insomma una situazione molto difficile, no? Sì, beh, come è successo un po' così a canone in tutti i ex paesi dell'est, anche l'Albania ha vissuto questo periodo di transizione che è stato insomma non un periodo molto, molto bello. Tu quanti anni avevi quando hai attraversato per la prima volta il Mar Mediterraneo? 17 anni. 17 anni. Poi sei stato rimpatriato. Questo mi raccontavi, non si ricorda spesso, che siete stati tutti rimpatriati subito. Ma perché si è sempre raccontato l'arrivo di questa nave grande che faceva paura da come era vestita di gente, e anche nei punti più alti della nave, irraggiungibile normalmente per un essere umano. Però non si è più parlato dopo della fine che hanno fatto queste 20.000 persone, come succede sempre insomma, cioè la tragedia in primo piano e poi che fine fanno, quali sono i risultati di qualsiasi evento, questo poi è difficile raccontarlo dopo. Allora ci fermiamo un attimo perché abbiamo una pausa per la viabilità, continuiamo a parlare di cibo, pregiudizi, viaggi italiani nuovi e novità appunto che hanno portato da noi subito dopo. Qui si scherza sempre carnevale tutto l'anno, non ci sono scandali né crisi di governo qui nel paese dei balocchi. Stiamo parlando con Kledi Kadiu, un ballerino albanese che tutti voi probabilmente conoscete da tanti anni in Italia, un nuovo italiano, un italiano di origine straniera, come noi diciamo, che è qui con noi a raccontarci del suo arrivo in Italia, ma anche di quello che sta facendo adesso. Il Paese dei Balocchi era una canzone dell'anno successivo allo sbarco di questa nave che veniva dall'Albania. Tu te la ricordi questa canzone? Sì, come no, sì. Era molto ironica, ovviamente, parlava ovvio, di un paese ovvio. Che probabilmente voi vedevate dalla televisione, anche noi guardavamo in televisione e anche allora forse non era l'Italia, era l'Italia della televisione. Poi com'è stato invece il rapporto con l'Italia vera? Ma guarda, la televisione in tutto il mondo, perché poi è facile criticare sempre, siamo tentati a fare sempre delle critiche alla povera televisione, è vero, cioè la televisione, l'intento, l'obiettivo della televisione è spettacolo, indubbiamente. Però l'Italia di allora, quando sei arrivato, era quella della televisione? Soprattutto l'Italia di adesso, la vedi cambiata? Ma l'Italia di adesso è totalmente cambiata riguardo a 20 anni fa. In primis nei rapporti con gli stranieri, ovviamente. Essendo tuttora comunque l'Italia un giovane paese per quanto riguarda la convivenza con altre etnie, prima c'erano soltanto 350.000 stranieri nel territorio italiano, oggi sono più di 5 milioni e ovviamente il rapporto si è cambiato, insomma, anche con la gente, iniziando dai giovani, dalle scuole. Io nella scuola ho ovviamente una gran percentuale sono ovviamente gli italiani, però ci sono tanti ragazzi stranieri che sembra un altro paese sotto questo punto di vista, ma in positivo lo dico. Tu qualche anno fa, nel 2008, visto a maggio 2008, sei stato aggredito e ti hanno anche insultato in quanto albanese. È stato un episodio isolato o ti era già capitato? Ti è poi capitato? Ma quello è stato un poi era una situazione che è stata degenerata, non è che mi hanno aggredito, quella è una situazione poi degenerata e insomma è diventata insomma un'aggressione. Non ti sei mai sentito al centro di qualche pregiudizio oppure appunto di attacchi per la tua origine? Ma è capitato tanto tempo fa, insomma, quando vivevo tipo anche se insomma i pregiudizi non è detto con delle frasi, percepisci dai sguardi, dalle parole, dall'intensità di un discorso che si sta facendo, che diventa molto più breve e finisce in fretta, si capisce, insomma, cioè non è detto che uno ti deve dire la solita frase stupida, idiota, ah ma tu vieni dall'Albania, capito? Non è questo l'importante, la persona sveglia, intelligente, capisce che insomma c'è una diffidenza o c'è un timore di aprirsi. E cosa ti dà fastidio dell'immagine degli albanesi in Italia? Perché a volte viene collegata, forse più in passato che adesso, a situazioni di piccola criminalità, ad esempio. Sì, ma perché, guarda, ma siccome si è parlato, ecco la cosa che dicevamo prima, siccome si è parlato e si parla tuttora, insomma, non più dell'Albania, ma adesso per esempio della Romania, oppure del Marocco. Cioè a turno c'è sempre un paese, secondo te, che viene preso un po' di mira? Sì, negative. Cioè, io non voglio, per carità, dire che non succedono tantissime. La cronaca nera lo vediamo, lo viviamo i giorni d'oggi, che sempre siamo bombardati dalla cronaca nera, sia in TV, sia la stampa, sia i media, ovunque ci giriamo la testa, insomma, la gente è veramente... Però ci sono poche notizie positive di spettacolo, di calcio, di feste, di arte, di medici che arrivano dei successi, e queste cose non so perché, o perché non fanno scalpore, non fanno audience televisivamente parlando, e non si dicono queste cose. Almeno la bilancia è sempre dalla parte delle cose negative. E tu dicevi la nave Dolce in qualche maniera per la prima volta ha parlato del tuo paese, di questo sbarco, in maniera diversa. Del perché? Perché la gente non è più curiosa. Ecco, questo volevo dire prima. Se 20 anni fa c'era più curiosità, ma una curiosità molto semplice, delle cose che noi stiamo parlando anche oggi, anche dei cibi, della lingua, della storia, e c'era un via vai di domande semplice che faceva sì che tu avevi una vicinanza molto naturale con la persona che ti faceva le domande. Adesso c'è meno curiosità, secondo un blocco totale, delle barricate immense che non fanno succedere questa vicinanza, un po' per paura di quello che hanno sentito, un po' sembra che veramente lo straniero è il nemico pubblico che ti toglie il lavoro, ti toglie la tranquillità, questo è il pensiero comune alla fine. Sentiamo anche un altro audio che arriva da un altro film italiano che parecchi anni fa ormai si era occupato di questi sbarchi. Il 7 aprile 1939 le truppe italiane sbarcavano sull'altra sponda dell'Adriatico e l'unione politica fra l'Italia e l'Albania, conscia del suo nuovo destino di civiltà, si compiva nel segno del vittorio. La storia di quelle giornate è breve e significativa. Il 12 aprile l'assemblea costituente albanese decide di offrire alla... Così iniziava il film di Gianni Amelio L'America, con un documentario molto vecchio della propaganda del ventennio fascista, di quando gli italiani erano andati in Albania, e anche quel film si occupava degli sbarchi di albanesi, in questo caso era fiction chiaramente. Tu lo conoscevi questo film, lo conosci? Sì, mi ricordo bene, mi ricordo benissimo il film L'America, mi ricordo anche perché... Il 7 aprile, io sono nato il 7 aprile, ovviamente non del 1939, un po' di decenni dopo, ma mi ricordo bene la data. Quindi molto prima che gli albanesi sbarcassero in Italia, gli italiani erano andati in Albania, molto spesso ce lo dimentichiamo. Tanto che non c'è stato, insomma, in 48 ore tutta l'Albania era... dell'Italia, non c'è stato un morto, per modo di dire. È stato un abbraccio quasi. Sì, quasi, e questo quasi. Fa sì che c'era comunque un richiamo di fraterno, così, certo. Anche di allontananza, ma insomma, le persone che si volevano bene. E forse proprio per questa storia che a volte dimentichiamo, gli albanesi si sentivano molto italiani, come dicevi, imparavate l'italiano, vedevate la televisione italiana, e quindi c'era una spinta quasi naturale verso questo. Tu segui la politica italiana? Oddio, lo seguo, però non sono arrivato in un punto che... Tu non voti in Italia, No, io voto, voterò. Cioè, voterai, ok. Tre e quindi... anni che voto, ma non mi dispiace non capire più niente di cosa succede, perché come al solito si dicono tante promesse, si fanno tante promesse, ma alla fine... non lo so, non so cosa succederà. Anche tu, come molti di noi, insomma, ti stai facendo un'idea. Allora, parliamo un po' dei tuoi progetti prima di dare le ricette. C'è una tournée che partirà dal 6 di marzo, è così? Sì, sono due i progetti importanti, ovviamente legati alla danza. Una è la tournée, infatti sono in prova intensiva da una settimana oramai, per questo spettacolo dedicato al tango, stile contemporaneo, moderno. E prima delle prove, trana oppure spaghetti aglio olio? No, prima no, è a voglia, no, adesso no. Dopo le prove, sì. Prima delle prove, rigorosamente. Prima delle prove è un po' difficile, sì, una colazione abbondante che ti permette di affrontare almeno 3-4 ore di allenamento senza la pausa e dopo si mangia. Allora, riepiloghiamo le ricette di oggi: due piatti semplici e poveri delle due sponde opposte del Mediterraneo. Traana. Ingredienti per due persone. 2 manciate di farina Traana. Brodo di pollo, 100 g di pancetta a dadini, sale e olio quanto basta, cubetti di pane arrostito. Per il brodo di pollo, pollo o gallina, cipolla, carota, sedano, sale. Preparazione. Preparate il brodo di pollo facendo cuocere in acqua salata il pollo con gli odori. In alternativa fate sciogliere un dado di pollo in una pentola con acqua calda. In una pentola capiente fate scaldare un po' di olio, aggiungete 70 g di pancetta e fatela rosolare. Aggiungete il brodo di pollo caldo, versate il Traana e cuocete coperto per circa 20 minuti, regolando di sale se necessario e aggiungendo altro brodo di pollo se ne assorbisse troppo. Impiattate e servite ponendo i cubetti di pane arrostito ai bordi del piatto e centralmente la pancetta rimanente, precedentemente rosolata in una padella senza olio. Si può mangiare caldo o tiepido con aggiunta o meno di formaggi. Tempo indicativo di preparazione 1 ora e 30 minuti. Spaghetti, aglio e olio. Ingredienti per 6 persone. Spaghetti 500 g. Aglio, olio e peperoncino quanto basta. Far cuocere in abbondante acqua salata 0,5 kg di spaghetti e toglierli dal fuoco al dente. Precedentemente avrete fatto soffriggere in abbondante olio vergine 2 o 3 spicchi d'aglio, avendo cura di togliere l'anima. Non appena si saranno imbionditi, il sugo sarà pronto. Versatelo sugli spaghetti dopo aver tolto l'aglio e spolverizzate di prezzemolo tritato e pepe. Tempo di preparazione 15 minuti. La nostra puntata termina qui. Ringrazio il nostro ospite Cledica Diu. Buona giornata e buon pranzo. Grazie. Buona cena. In regia grazie Valeria Bernardi. Mi trovate anche su Twitter @valfurla e trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti e ricordate che i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of